Il matrimonio non era mai stato nei suoi programmi. Aveva 35 anni ed era molto devoto al suo lavoro. Si sentiva nobilitato da quella paziente dimostrazione compiuta sotto gli occhi dell'ignoranza e del pregiudizio, di ciò che era possibile ottenere con qualche campo di terra arida se solo la si mischiava a un buon uso del cervello. In fatto di governo della casa, poi si sentiva sistemato in modo più che soddisfacente, ora che aveva trovato una donna per sbrigare le faccende di casa, la quale, essendo vedova, aveva avuto modo di imparare la grande lezione che nessuno meglio di una vedova conosce, e cioè che un uomo deve essere lasciato in pace. Era povero, e ogni denaro risparmiato grazie a un rigido regime di economie finiva in quei pochi acri di terra sabbiosa su cui egli compiva i suoi esperimenti agricoli e che rappresentavano il suo dono di luce ai pagani per illuminarne lo spirito. Credeva infatti che era compito di ogni uomo, prima di morire, offrire un po' di luce alle menti pagane che popolavano la terra. Una luce forse piccola, ma così splendente che sarebbe stato impossibile non avvistarla. Ogni anno, nel periodo di inizio primavera, egli considerava la possibilità di ammogliarsi, ma era arrivato alla conclusione che una moglie si sarebbe frapposta fra lui e quella luce. Sì, avrebbe proiettato un'ombra, e per di più un'ombra voluminosa, totalizzante. La faccenda della chiesa e dei sermoni comportava già in buona misura un motivo di interruzione, ma perlomeno la loro cadenza era settimanale. La presenza di una moglie, invece, sarebbe stata giornaliera. Riflettendo, aveva pensato che avrebbe potuto chiuderla fuori dal laboratorio e forse anche dal salotto, ma quando capì che stava considerando seriamente da quali altre stanze fosse possibile escluderla e scoprendo che desiderava eliminarne la presenza da quasi tutte, lui, uomo saggio e onesto, aveva deciso che sarebbe stato meglio mettere una volta per tutte una pietra sopra le vergini dalle curve generose che vivevano nel circondario. La questione si ripresentava con regolarità ogni anno, in occasione delle prime giornate calde di primavera. Durante il resto del tempo, assorbito com'era dal lavoro, per lo più se ne dimenticava. Ora invece, eccolo sulla vetta del Monte Righi, un luogo freddo, quasi invernale, ma diventato all'improvviso così vivo e palpitante che in confronto i suoi fertilizzanti gli sembravano soltanto una ridicola inezia. Si soffermò a esaminare con attenzione il cambiamento avvenuto in lui. Provava orgoglio per il modo in cui si era innamorato. A lui, privo di mezzi com'era, questa cosa era accaduta senza sapere se la giovane donna in questione gli avrebbe portato una dote cospicua o se invece fosse nulla tenente. Sedeva là, assaporando l'idea che nonostante i suoi 35 anni riusciva ancora a sentirsi intrepido. Era così compiaciuto di provare tanta attrazione che se anche lei non avesse posseduto nulla l'avrebbe sposato ugualmente, mettendo poi in atto una serie di magistrali manovre finanziarie, la più accorta delle quali prevedeva il congedo della vedova e la sostituzione della sua tetraggine con questo sole che irradiava luce pura, stroncando sul nascere le speranze ancora in boccio di un fiore appassito da lungo tempo. E il tatto della giovane donna, di cui aveva avuto prova in numerose occasioni, le avrebbe imposto di tenere confinata quella luce ai momenti più opportuni. Sicuramente non l'avrebbe lasciata traboccare invadendo i suoi orari lavorativi. Inoltre, il matrimonio avrebbe apportato qualche beneficio al giusto equilibrio dei valori. Una volta celebrato, egli non aveva alcun dubbio che la moglie si sarebbe limitata ad occupare il posto che le spettava, posto che si sarebbe attestato, benché in posizione onorevole, un poco al di sotto dei fertilizzanti. Se così non fosse stato, se il matrimonio avesse mancato di riparare alla confusione accidentale dei suoi preliminari, che evento disastroso allora si sarebbe rivelato all'innamorarsi. Nessun uomo avveduto avrebbe mai potuto lasciare che accadesse. Com'era interessante però il modo in cui la natura, quella vecchia antagonista, quell'inarrestabile nemica dei pensieri dell'uomo, riuscisse comunque prima o poi a spuntarla. E quanto ancora più interessante era l'ingegnosità con cui l'uomo, consapevole di questo trucco e determinato a sfuggire alle perturbazioni derivanti da un effetto duraturo, avesse inventato lo stratagemma del matrimonio. Cullò con lo sguardo benevolo la piccola figura a margine del panorama. Perché non sposarla ora e con frugalità convertire quel che restava dell'escursione in una luna di miele? Con estrema semplicità e l'oblio verso cose quali pubblicazioni di matrimonio e necessarie licenze, caratteristiche tipiche di un uomo dedito a occupazioni di natura scientifica, non vide nessun impiccio d'ostacolo al suo proponimento. Era ovvio, era auspicabile. In primo luogo avrebbe evitato a lei di dover ritornare in Inghilterra e secondo avrebbe permesso a lui di risparmiare le spese relative al viaggio per recarvisi successivamente. Alla fine della settimana sarebbero andati assieme direttamente a casa nella Prussia orientale e per quanto riguardava il consenso della sua famiglia, se lei aveva potuto scappare via, come gli aveva raccontato, per il solo beneficio di una scampagnata, chissà con quanta più solerzia, con quale accresciuto entusiasmo l'avrebbe fatto al fine di procurarsi un marito. Dimmi, piccola, le domandò quando lei lo raggiunse di nuovo. Vuoi sposarmi? Capitolo 4. Ingeborg rimase attonita. Lo fissò ammutolita, pensò all'abisso che passava tra l'amicizia, anche quella più calorosa, e il matrimonio. Sapeva che un certo sentimento nei confronti del pastore era andato crescendo di giorno in giorno, ma come era caratteristico di lei non si era aspettata nulla in cambio. L'idea che anche egli si stesse comportando in modo sempre più affettuoso nei suoi confronti non l'aveva nemmeno sfiorata. Nessuno le aveva mai dimostrato tante premure, dato che la presenza di Judith, quel miracolo di bellezza, provvedeva a sprofondare nel più anonimo scalbore. È vero che il vicario della chiesa parrocchiale di Rochester le aveva chiesto una volta, con quella sua voce esanime dall'inflessione oxfordiana: «Sapete, io non do molta importanza alle facce. Volete sposarmi?» E lei, per paura di ferire i suoi sentimenti, aveva posto un rifiuto così cauto che per una settimana egli aveva creduto di essersi fidanzato. Ma non lo si sarebbe potuto certo definire un comportamento affettuoso. Proprio come il sole sembra rendere ancora più fioca la luce di una candela, così la radiosa bellezza di Judith faceva impallidire ulteriormente la figura di Ingeborg. Si somigliavano, curiosamente, ma Ingeborg era l'ombra della sorella, una versione appannata e scialba. Judith invece era Ingeborg cresciuta in altezza, diventata incantevole, Ingeborg magistralmente cesellata in oro e avorio. Nessun uomo avrebbe potuto innamorarsi di Ingeborg finché avesse avuto dinanzi ai suoi occhi l'immagine esatta della stessa ragazza, ma tramutata in perfezione. Essendo Judith da sempre al suo fianco, per Ingeborg era la cosa più naturale del mondo sentirsi insignificante e di conseguenza venire ignorata. Ogni volta che si prendeva una pausa dal lavoro che svolgeva per il padre, Ingeborg diveniva lo chaperon di Judith. Accettava la situazione con grande filosofia, dato che nulla era più evidente della bellezza della sorella. E durante i ricevimenti, Ingeborg, relegata in un angolo, soleva tenersi sveglia recitando brani dei salmi, l'unica lettura su cui potevano concentrarsi i suoi entusiasmi, essendole proibiti i romanzi. Costituiva dunque una sorpresa per una persona avvezza a tanta sana e benigna umiltà il sentirsi chiedere in sposa. Il fatto poi che il pretendente fosse Herr Dremmel sembrava ancora più straordinario. Non aveva l'aspetto di un papabile al matrimonio, non sembrava neppure quel tipo di uomo che chiede a una donna di sposarlo. Sedeva lì, con le mani strette sull'impugnatura del bastone, e la fissava con una benevolenza incredibilmente placida, formulando la proposta come se fosse un qualsiasi argomento di conversazione. È vero che non l'aveva mai chiamata piccola prima di allora. Ma quello, rifletteva Ingeborg mentre di fronte a lui considerava quanto le andava capitando, era un appellativo carino più che caloroso. Ingeborg pensò a trattarsi di un effetto davvero singolare e inaspettato della sua impresa di viaggio. «È tutto molto imprevisto», disse debolmente. «Sì», convenne lui. «Anch'io sono enormemente sorpreso». «Mi spiace», disse. «Che cosa ti spiace, piccola?» «Non posso accettare la vostra offerta». «E perché mai? C'è qualcun altro?» «Non quel genere di altro. C'è mio padre». Lui tracciò un'ampia parabola col braccio. «I padri», sentenziò spingendo via l'intera razza in un luogo lontano dalla sua vista. «Ma lui è molto importante, importante. Quando mi sposerai, piccola? Non posso lasciarlo. Egli diventò paziente. È scritto che la donna lascerà il padre e la madre e ogni altro simile ostacolo che sventuratamente può trovarsi sul suo cammino e che resterà accanto al proprio marito. A dire il vero, quello che sta scritto si riferisce al dovere del marito di restare accanto alla propria moglie e nulla si legge che riguardi la donna. Inoltre, disse, ma poi si arrestò. Non poteva confessargli che non aveva proprio nessuna voglia di restargli accanto. Lui la fissò per un attimo in silenzio. Non aveva preso in considerazione l'eventualità di dover diventare persuasivo. La tua, disse con severità, è pura prevaricazione. Ingeborg si sedette sull'erba, si cinse le ginocchia con le braccia e sollevò lo sguardo verso di lui. Quando era giunta alla sommità, si era tolto il cappello per usarlo a guisa di ventaglio e poi non l'aveva più indossato. Mentre sedeva, volgendo la schiena ai bagliori incandescenti del cielo, i suoi riccioli, magnificamente inondati dai raggi del sole, venivano sospinti gentilmente avanti e indietro dalla lieve brezza, guizzando come piccole lingue di fuoco. «Ma tu», disse Herr Dremmel, chinandosi improvvisamente verso di lei e contemplandola, «sei fatta di puro spirito!» Parole le fecero piacere. Per un attimo i suoi occhi danzarono. Sì, puro spirito, ripeté. E io me ne sto qua a parlarti con convinzione, come se tu fossi una normale donna in carne ed ossa. Piccola, come si fa ad acchiappare uno spirito e a sposarlo? Dimmelo, perché desidero sul serio che mi si mostri il modo. Semplicemente non lo si fa, disse Ingeborg. Su, non fare la difficile. Fino ad ora sei stata così docile, il tuo contegno in ogni campo mi è stato di grande conforto. Ma questa, iniziò Ingeborg. Sì, so bene che questa. Era ancor più emozionato di quanto avesse creduto possibile. Stava diventando quasi impaziente, ma domandò Ingeborg, esplorando la nuova interessante situazione. Perché lo volete fare? Sposarti? Sì. Perché, disse Herr Dremmer con grande prontezza di spirito, ho avuto l'immensa fortuna di innamorarmi di te. Nuovamente Ingeborg apparì compiaciuta. E non ti chiedo di amarmi oppure di dirmi se sei innamorata di me. Sarebbe presuntuoso da parte mia e se tu lo facessi, poco modesto da parte tua. Questa è la differenza tra un uomo e una donna. Lui ama prima del matrimonio. E lei lo fa soltanto dopo. Ah sì, chiese Ingeborg interessata. E l'uomo che cosa? La donna, continuò Herr Dremmel, prova affetto e stima prima del matrimonio, mentre l'uomo prova affetto e stima dopo. Oh, disse Ingeborg riflettendo, prese a strappare ciuffi d'erba. Sembra così freddo, disse. Freddo? Fece colui. Lasciando il bastone si alzò, si avvicinò e si sedette, o piuttosto si lasciò cadere sull'erba vicino a lei. Freddo? Ma non sai che un bel freddo è un ottimo metodo di conservazione? Ciò che è caldo deperisce. Ciò che è gelato non può vivere. Un giusto grado di freddo, invece, favorisce la conservazione della vita affettiva e del tutto appropriatamente. La natura lo dispensa prima del matrimonio alla donna e dopo all'uomo. In tal modo è possibile raggiungere un buon equilibrio, con il risultato che pace e armonia, due elementi che prosperano alle basse temperature, possono regnare incontrastati. Lei lo guardò e si mise a ridere. Non vi era nessuno a Recester. E Recester era tutto ciò che conosceva della vita. Che fosse nemmeno lontanamente simile a Herr Dremmel. Si stiracchiò, sentendosi libera e felice, accoccolandosi comodamente in quella spaziosa differenza. E non posso credere, proferì all'improvviso Herr Dremmel con un vigore appassionato, che stupiva anche lui mentre afferrava la mano intenta a strappare erba, non posso credere che tu non mi voglia sposare. Non posso credere che rifiuterai un marito buono e devoto, che preferirai rimanere con tuo padre e diventare una delle vergini di ghiaccio che affollano questa terra. Diventare che cosa? ripeté Ingeborg colpita da questa immagine di sé in futuro. Iniziò a ridere, poi si fermò. Indi lo fissò, gli occhi grigi sgranati. Mentre nella sua mente balenavano gli anni passati e quelli ancora a venire, dimenticò Herr Dremmel e il fatto che ancora le stringeva la mano con l'erba all'interno. Sapeva di avere di fronte a sé una serie di anni tutti insopportabilmente uguali e quelli passati non erano riusciti a renderla di ghiaccio poiché era ancora troppo giovane, ma presto avrebbero avuto la meglio. Il vuoto ripetitivo delle sue giornate affaccendate, la corsa precipitosa per il disbrigo di sterili incombenze, i pochi momenti di ciò che quando era più giovane soleva chiamare felicità, ma che ultimamente era diventato semplice sollievo, le rare occasioni in cui il padre la elogiava. Quanto prima tutto questo le si sarebbe cristallizzato attorno, congelando la morte. Il viso di lei si fece solenne. È vero, disse lentamente. Diventerò una vergine di ghiaccio. Sono predestinata a esserlo. Mio padre non acconsentirà mai al mio matrimonio. Oh, che ragionamento quanto mai incredibile, infantile, esclamò lui arrabbiandosi. Si sa che da sempre i padri desiderano sbarazzarsi delle figlie. Non capite, è diverso, mio padre, beh, proruppe all'improvviso quasi gemendo. Io avevo l'abitudine di prendere delle dosi di olio di fegato di merluzzo in segreto per mantenermi al suo livello. Capite? Lui è un essere eccezionale. Quando mi elogia non riesco a dormire la notte e se mi biasima mi trascino affranta per casa come un essere pencolante. Herr Dremmel, irritato, muoveva la mano di lei avanti e indietro. Insomma, non riesco a capire che cosa significano queste argomentazioni di nessun conto. Ti sto offrendo il matrimonio e tu rispondi dandomi informazioni sull'olio di fegato di merluzzo. Non credo nell'ostacolo costituito da tuo padre. Non riconosco la mia piccola onesta amica di questi ultimi giorni. La mancanza di sincerità è solo uno spreco di tempo. Se non fosse per tuo padre, mi sposeresti? Ma, replicò Ingeborg in un lampo sopraffatta, come spesso accadeva dall'impulso di lasciare che la verità sgorgasse liberamente, veicolata dalla sua voce. Non capite che è proprio per causa sua che lo farei. Nell'istante stesso in cui pronunciò quelle parole, percepì lo shock del suo effetto. Fissò Herr Dremmel a occhi spalancati con contrizione. Che slealtà! Che orrore confidare a un estraneo e a un estraneo con i capelli simili a pelliccia, con qualsiasi fatto riguardante quelle persone legate da uno stretto vincolo di parentela che le era stato insegnato a descrivere come i propri cari. E ora, gridò tentando di sottrarre la mano, lasciatemi la mano, lasciatela! Provò a rimettersi in piedi, ma lui, con un'energia che non sapeva di possedere, la tirò giù nuovamente. Non riconosceva nessuna delle emozioni che andava provando e delle cose che stava facendo. Il vero Dremmel, il pastore delle calme profondità ove si stendevano future felici distese di fertilizzanti, osservava attonito quella condotta infiammata che aveva luogo in superficie. No! Disse con grande determinazione. Adesso ti siedi qui e mi spieghi di tuo padre. È tremendo che una persona non possa lasciare casa sua nemmeno per una settimana senza finire in un pasticcio, disse Ingeborg, scoprendo all'improvviso come la cosa che aborriva più di tutte fosse il sentirsi afferrare e, guardandolo dritto negli occhi, il capo tenuto un po' discosto dal suo. Un pasticcio! E tu chiameresti pasticcio la proposta di matrimonio da parte di un uomo onesto? Qui c'è una persona che decide di andare via per un po' di cambiamento. Privatamente. E prima ancora che capisca dov'è finita, si ritrova sulla cima del Righi e un estraneo le ingiunge il suo futuro marito. Urlò Herr Dremmel, che stava trovando la presentazione della sua offerta ben più difficile di quanto avesse supposto. Le ingiunge di spiegare suo padre, come se mai qualcuno potesse spiegare il proprio padre, come se mai qualcuno potesse spiegare qualsiasi cosa. Santo cielo! Gridò Herr Dremmel. Allora non spiegarmelo, sposami e basta. In quel momento la serpeggiante processione composta dal resto della brigata, guidata da Mr. Heshaw con l'orologio alla mano, emerse dall'albergo dove aveva preso il tè, pulendosi la bocca, poi puntando in direzione del pianoro e preparandosi ad ammirare il tramonto. Sobbalzando come un sol corpo che sia stato puntato da un insetto, la comitiva procedette a uno scarto improvviso allorquando si rese conto che stava per calpestare i due giovani sull'erba. Ingeborg sedeva alquanto eretta e impettita, fingendo di osservare con attenzione il panorama, ma dimenticando che in realtà si trovava alle sue spalle, e arrossendo quando scoprì che non vi era tempo a sufficienza per frapporre una distanza decorosa e ben visibile tra lei e Herr Dremmel. «Guardate un po' quei due!» bisbigliò la giovane donna che chiudeva la processione al giovanotto che le camminava accanto e che stava spazzando via dalla sua cravatta dei rimasugli di pane burro. Egli guardò e sembrò volersi soffermare. «Lei è davvero attraente, non trovate?» chiese. «Oh, vi pare?» ribatté la vicina. «A me non sembra mai attraente qualcuno che non sia davvero... Sapete che cosa intendo dire? A modo, capite? Che non si comporti da vera signora!» E lo esortò a sbrigarsi perché disse: «Altrimenti si sarebbe perso il tramonto». Capitolo 5. Ingeborg trascorse quasi tutta la notte su una sedia rigida presso la finestra della sua camera, sforzandosi seriamente di riflettere. Era davvero increscioso, ma ogni volta che si accingeva a pensare, trovava quell'esercizio enormemente difficile. Sapeva tenere gli affari di suo padre in meticoloso ordine, ma non riusciva a dominare altrettanto bene i suoi pensieri. Si susseguivano a ripetizione e ognuno sembrava rimbalzare qua e là dentro di lei per farsi sottoporre prima degli altri al vaglio della mente. Non avevano pazienza e non ne volevano sapere di attendere in file ordinate. In realtà aveva sospettato spesso che non si trattasse di pensieri veri e propri, quanto di mere emozioni. L'idea la deprimeva perché temeva, la degradava allo stesso livello degli insetti, annettendola a quella categoria di esseri viventi che non avrebbero mai avuto accesso al paradiso, un'ipotesi decisamente inquietante per la figlia di un vescovo. Le dispiaceva che i suoi pensieri fossero così lontani da ciò che a casa le regole del decoro permettessero di esprimere. A Herr Dremmel, invece, era stata in grado di rivelarli tutti, nella misura in cui la sua abilità con le parole, che la sua mente associava alla figura di un veicolo sgangherato dall'andatura stentata, glielo consentiva, e questa era una delle ragioni per cui trovava la compagnia dell'amico così confortante. Naturalmente non era a conoscenza dell'abitudine di quell'uomo sempre assorto nei suoi pensieri di ascoltarla con un solo orecchio, un orecchio benevolo, ma solitario, mentre con l'altro, rivolto al suo interno, seguiva l'analisi dei problemi in corso nella sua mente. Problemi ora relativi al nitrato di potassio, ora ai superfosfati. Ingeborg sedeva osservando le stelle e i comignoli fuori dalla finestra, con le mani serrate in grembo, dicendosi che era giunto il momento di formulare pensieri chiari, chiari e razionali, andava ripetendosi con rigore, sebbene fosse già consapevole della danza intrecciata che aveva luogo nella sua testa. Che cosa doveva fare riguardo a Herr Dremmel? E al ritorno a casa, e riguardo, oh, riguardo tutto il resto. Erano discesi dal rig in treno in un silenzio greve. Come al solito, nessuno aveva rivolto loro la parola e per la prima volta da quando avevano stretto amicizia non se l'erano rivolta nemmeno loro. Avevano continuato a tacere anche durante la cena. Lui sembrava assorto e non appena nell'alzarsi da tavola lei gli aveva augurato la buonanotte, lui l'aveva sospinta nell'andito e mentre il portiere fingeva di non udire nulla, l'aveva implorata accoratamente di non sottostare più ad alcuna prevaricazione paterna. Dato che era troppo tardi per quella sera, Herr Dremmel suggeriva un fidanzamento tranquillo il giorno dopo. Sì, meglio fissarlo per l'indomani, confermò estraendo l'orologio. E mentre lei tentava di battere in ritirata, sgattaiolando di lato e arretrando lentamente sulla scala, ammutolita dall'incapacità di trovare subito una risposta che potesse esprimere sufficiente tatto. Egli, squadrandola con severità, le chiese ad alta voce che cosa significasse tutta quell'agitazione. Posta di fronte A quella domanda le aveva voltato la schiena, rinunziando alla ricerca di parole adatte ed era corsa su per i rimanenti gradini, dicendosi che in fatto di matrimonio Herr Dremmel possedeva una decisa tendenza a fagocitare. Lui, dopo un attimo di perplessità trascorso giù in basso, presso lo zerbino, era entrato nella sala di lettura con un'espressione confusa sul viso. Ora Ingeborg sedeva alla finestra e rifletteva. Il viaggio di ritorno non sarebbe avvenuto che tra 2 giorni, e al pensiero di ciò che le sarebbe stato detto una volta arrivata e di ciò che lei avrebbe offerto in risposta, già sentiva i brividi correrle sul collo e giù, lungo la spina dorsale, come se lievi dita di ghiaccio le sfiorassero la pelle. Era riuscita a convincersi che la sua piccola vacanza sarebbe stata considerata una questione del tutto innocua e naturale. Ora invece sentiva che questa incresciosa faccenda con Herr Dremmel l'avrebbe sconfessata, dando a suo padre motivo di riversare su di lei una collera che altrimenti, se si fosse trattato solamente di un po' di divertimento e di stimolo per sé, si sarebbe potuta considerare irragionevole. Questa è la peculiarità dei genitori, si disse Ingeborg, che alla fine la loro posizione è sempre giustificata. Se si disapprovano l'azione di un figlio, per quanto piccola e innocente essa sia, sopraggiungerà di certo un elemento che in definitiva darà loro ragione. Ricordò alcuni episodi, piccole occasioni di gioventù. Questa però era una grande occasione e l'elemento sopraggiunto era risultato essere Herr Dremmel. Che peccato, che grande peccato non aver deciso, prima di lasciare Londra con tanta impulsività, se al suo rientro a Redchester avrebbe detto la verità o meno. Non si era soffermata a riflettere su alcun aspetto, se non sull'immensa gioia che le dava il pensiero di scappar via. Ora le si presentava l'odioso dilemma se mentire o confessare la verità. Mentire era di certo una brutta cosa, mentire al proprio padre è addirittura orrenda. Ma mentire a un vescovo stravolgeva completamente i termini della questione. Se nel caso di un peccato di natura privata il peccatore implorava il perdono e Dio avrebbe potuto mostrare misericordia, un peccato invece più grave, come poteva essere quello ai danni di una cattedrale, si trasformava automaticamente in un vero e proprio reato di sacrilegio. Se già era impossibile profanare qualcosa di sacro ed edificato come un vescovo, la colpa diveniva 2 o 3 volte maggiore se eri la figlia di quello stesso vescovo. Le mani serrate in grembo e divenivano sempre più gelide mentre si insinuava in lei la consapevolezza di dover raccontare la verità. Decise di essere valorosa in tutto e per tutto, come lo era stata la nonna svedese, una donna ben conscia del pericolo che l'attendeva sui monti e sull'acqua dei laghi ventosi, e lo sfidava sprezzante della paura, sentimento che invece la nipote conosceva fin troppo bene. Quello di Ingeborg era piuttosto il tipo di coraggio cui si appella chi è completamente atterrito e che, per quanto spaventato oltre misura, si ostini a voler andare fino in fondo. Si sentiva debole, eppure determinata. Vedeva il terrore dilagare nel suo immediato futuro. Aborriva l'idea di dover essere ardita. Si sentiva troppo vulnerabile per poter rispondere sinceramente, con coraggio, alle domande minacciose del padre. Egli non avrebbe esitato a ricordarle i precetti del catechismo e il sacramento della cresima, così come la legge del giusto comportamento dell'amore filiale. Non era equo. Se già non era possibile discutere con un genitore e rispondere a tono, nel caso di un vescovo si poteva soltanto convenire all'istante su qualsiasi argomentazione esposta. Rimaneva un'unica possibilità, sebbene decisamente remota, che il padre fosse troppo occupato per porle delle domande. Sospirò, consapevole di quanto poco potesse confidare su tale eventualità, sapendo bene che anche la domanda più superficiale riguardo alla zia o al dentista avrebbe fatto emergere tutta la storia.